Bentrovati e bentrovate. Fuga del gatto, puntata estiva, come avrete intuito dalla sigla, ormai sì, non sigla estiva e non sì. Fate finta di non saperlo. Esatto, ormai non potete sfuggire. Beh, sigla energica anche che vi dovrebbe tenere un po' così sul pezzo. Sì. E contrastare il calo di pressione. Esatto, estivo. Del pomeridiano dell'estate. L'abbiocco. Allora, per contrastare anche l'abbiocco, abbiamo allora, quest'oggi abbiamo un concerto per voi, concerto in realtà non è un insomma, è una registrazione in studio, ma insomma, abbiamo un'opera secondo me veramente bellissima che vi sveglierà il più possibile. Una perla per continuare il ciclo di guida all'ascolto del gatto, la guida del gatto, invece la fuga del gatto, guida all'ascolto. Siete del gatto e potremmo dire anche tante altre cose. E vi proponiamo una, appunto questa puntata vi proponiamo per la prima volta anche di qui un altro inedito. Sì, anche perché questo veramente è uno sconosciutone, cioè non sì, come Albinoni. No. Ma uno sconosciutone, Heinrich Ignaz, chissà come si dirà. Ignaz Franz Bieber. Bieber. Da non confondersi con, ovviamente. Sì, se cercate su YouTube Bieber vi buona fortuna. Viene lui, sì. Allora, Bieber è un violinista boemo nato nel 1644 e morto nel 1704, quindi insomma a Salisburgo, per una vita breve, ahimè. E vabbè, ora al di là di entrare nella vita di Bieber, la cosa prima di tutto più importante da dire è che fu un musicista, compositore, violinista che rivoluzionò in qualche modo la tecnica violinistica e che poi fu in qualche modo usato come esempio, ma insomma diede spunto a tantissimi virtuosi del violino, uno tra tutti. Cioè in realtà diciamo allora, non solo gli esecutori ma anche gli stessi compositori avevano... sì. Hanno ripreso poi da lui in maniera incredibile. Però ora andiamo per ordine e partiamo dall'origine, ovvero 1668, ricordiamo, nasce nel 1644. All'incirca sui suoi 40 anni Bieber aveva lavorato alla corte del principe Johann Siegfried Eggenberg a Graz, in Austria, quindi. Poi si trasferisce a Kromeritz, in tutti questi posti che hanno il nome illeggibile, dove era maestro di cappella. Insomma, un classico esempio di musicista... alle dipendenze. Sì, alle dipendenze, che fa il suo lavoro, perché al tempo era un lavoro, come dire, boh, non so, non proprio come un imbianchino, ma insomma... artigiano. Sì, un lavoro come un altro. E quindi aveva fatto tutto questo percorso, poi andò a finire... alle dipendenze del vescovo di Olmutz e vabbè, e lì inizia a avere una buona reputazione. Di una reputazione di eccellente violinista. Eh sì, perché era palesemente molto talentuoso, era molto... So, tenete presente anche che insomma nel 1668 il violino non è che proprio avesse tutta questa diffusione come ce l'ha adesso. No, cioè. Anche perché fino alla, appunto, già, ecco, già con Mozart di più, però non, gli strumenti vanno sempre contestualizzati nel periodo, no? Quello che noi oggi, cioè l'importanza che noi oggi diamo a certi strumenti può essere diversa nella storia della musica. In particolare, appunto, il violino nel barocco non era lo strumento prediletto, non era il primo, no? Come poi è stato magari dopo, appunto, nel neoclassicismo e ancora di più magari nel romanticismo dopo. Per cui, ecco, essere un virtuoso del violino permetteva anche un'esplorazione dello strumento, no? Di uno strumento che ancora doveva arrivare alla massima della sua, al massimo della sua potenzialità. Sì, ma tant'è che insomma per acquistare dei violini non era proprio una cosa che fosse alla portata di tutti, appunto dovevi essere... Vabbè, sì, ancora meno potersi permettere gli strumenti, ovviamente. Sì, dovevi, insomma, era anche una cosa un po' pioneristica, dovevi iniziare a andartela a cercare dai liutai che erano farti pochi. Costruire. Insomma, questo fu, e a un certo punto, nell'estate del 1670, il vescovo, da cui lui appunto era le dipendenze, mandò Bieber ad Absam presso Innsbruck per negoziare con il celebre liutaio Jacobus Steiner. Famosi poi saranno i pianoforti dei suoi eredi, immagino, gli Steiner. Beh, probabile, non ho idea onestamente, ma penso di sì. E doveva negoziare con lui l'acquisto di nuovi strumenti per la cappella. Il compositore, in realtà, che fece il furbetto, invece di andare ad Absam, scappò, la deviazione per Salisburgo. Andò a Salisburgo e prese servizio. Proprio il fugone. E prese servizio dall'arcivescovo von Kuenburg. Chissà, boh, evidentemente era e uno. Chi veniva anche da Salisburgo, vabbè, dai, l'amato. E qui si Amadeus. Continua. E vabbè, si continua a tirare frecciate. E, allora, quindi praticamente cosa è successo? Che questo, che non è che proprio era in prigione, cioè era uno che lavorava per questo vescovo, prese, se ne scappò, andò da un altro, tradì proprio meramente. Vabbè, si vede, non lo trattavano bene. Fortunatamente, ma Salisburgo, insomma, era, no, era palesemente un paesello, è arrivato a Salisburgo, era meglio. C'è ancora la targa a Salisburgo, nella casa dove viveva lui. Gli andò meglio. Quindi, che successe? Che praticamente andò bene. Che questo secondo datore di lavoro, diciamo, in realtà era in rapporti d'amicizia con il vescovo di qui sopra, da cui era scappato, e quindi alla fine lo convinse probabilmente a soprassedere. Disse: vabbè, dai, ma sono ragazzi. Televiolino novela. Sì, sono ragazzi, dai, non lo linciare, non l'ammazzare, e vabbè. In realtà, insomma, era il comportamento per l'epoca, non era proprio una cosa così leggera, pigliare e partire e andarsene. Fu un comportamento piuttosto offensivo. E ricordatemi, infatti, Mozart, quando scappa da Salisburg, il vescovo a riprendere a Vienna. Per le orecchie, sì, sì, sì. Allora, niente, quindi poi però Bieber, com'è, come non è, rimase a Salisburgo per il resto della vita e da lì svoltò. Ah, la svolta. Fondamentalmente. Voltona salisburghese. Ci aveva visto lungo. Allora, Bieber fu, come dicevamo prima, di fatto uno dei più importanti, ed è tuttora uno dei più importanti compositori nella storia della musica per violino. Ma la cosa che lo contraddistinse fu anche quello di essere un incredibile compositore, perché aveva una tecnica tale, inimitabile in qualche maniera, almeno al tempo, e soprattutto sperimentava. Aveva questa cosa che era particolarmente bravo, particolarmente veloce, e siccome si beava di questa sua bravura, voleva osare sempre di più, e quindi iniziò a sperimentare. Ad esempio, iniziò a impiegare, per esempio, le doppie corde in passaggi particolarmente difficili. E soprattutto, come sentiremo poi nella composizione che ci andremo ad ascoltare, esplorò varie possibilità della tecnica della scordatura, che è un tipo di accordatura non canonica del violino. E la sua formidabile tecnica gli permetteva di raggiungere facilmente posizioni estreme sullo strumento, come la sesta e la settima, e quindi lui lavorò molto su queste, no? Su queste nuove, un po' venivano scoperte quasi, posizioni sesta e settima, che sono veramente difficili, veramente insomma estreme, e che fino a quel momento nessuno aveva mai sperimentato, cioè aveva mai composto per usarle, per inserirle, ecco. Eh sì, scordatura che poi prima ve l'ho buttata un po' lì senza finire, lasciandovi nel dubbio, ma fu ripresa tantissimo da Paganini, poi, ecco, ovvio, tanto per tutti citare. I virtuosi del violino, di fatto. Esatto. Chi era molto dotato riusciva quindi a... Eh sì, la scordatura effettivamente ti dà possibilità piuttosto interessanti e sbalorditive in qualche maniera. E sì, è un'accordatura diversa, per esempio, che ne so, invece di Sol, Re, La, Mi, viene accordato in La, Re. Tanto per farla facile, così poi. Sì, tanto per, però in effetti è un qualcosa che gli strumenti ad arco spesso, insomma, non solo nel violino viene fatto, ma è un qualcosa che t'apre un mondo, evidentemente. La musica di Bieber ebbe una grande influenza sui suoi contemporanei e divenne fonte di ispirazione per compositori e violinisti in tutta Europa. Nel tardo Settecento Charles Burney dichiarò che Bieber fosse o Burney, che dir si voglia, dichiarò che Bieber fosse il più grande compositore per violino del XVII secolo. Quindi, insomma, ecco, Rubetta, fu riconosciuto, insomma. E nel corso del XX secolo è stato un po' riscoperto, no? Sì, perché prima, come al solito, il grande tritacarne dell'Ottocento, Ciaone, certo, i soliti noti. Invece, appunto, nel XX secolo ha riportato in auge le sue composizioni, ancora oggi riproposte in concerti, registrazioni discografiche. Tra le più famose si contano le 15 sonate scritte per la Confraternita del Rosario di Salisburgo. E si chiamano Sonate del Rosario o dei Misteri per violino e basso continuo, organizzate proprio secondo il ciclo dei Misteri del Rosario. E sono proprio queste che ci andiamo a sentire, sì. Esatto, le Sonate dei Misteri. Esattamente, che sono un po', vengono considerate il vertice della letteratura violinistica, almeno di quella che utilizza la tecnica della scordatura. E si sente, io devo dire, non ne so assolutamente niente di violino, non l'ho mai studiato. Che non è uno strumento barocco, quindi a lei non le interessa, signorina. Beh, in un certo senso lo è, però, sì, no, so io che proprio sono ignorante. Però devo dire che si sente, cioè si sente che c'è qualcosa di completamente diverso. E noi ci andiamo a ascoltare le Sonate dei Misteri, ma sono raccolte, in particolare abbiamo trovato un doppio CD che le raccoglie. Noi ci ascoltiamo soltanto il primo CD, perché insomma abbiamo tempo, ma non così tanto. Quindi sono 8 in tutto, di hanno tutte, come dicevamo prima, seguono tutto il ciclo dei Misteri del Rosario, quindi che non sappiamo dire assolutamente, no, e quindi manco ve le scomunicate figlie del demonio, delle streghe, noi non sappiamo, e manco ve le leggo perché poi mi si gira la testa, fuoco, no. Così. E quindi fidatevi. E niente, in questo caso il direttore è Reinhard Goebel e l'ensemble è Musica Antiqua di Köln. E quindi, che dire, ve le farei ascoltare perché veramente concentrazione, perché qui siamo sul serio. Attenzione, fate per bene e non ci fate arrabbiare. No, mi raccomando. Vi frustiamo con le corde del violino. Scordate. E incrociate. Alla prossima, ciao ciao. Ciao. Thank you.

Thank you. Thank you.